con l'attrice Paola Michelini per presentare il nuovo appuntamento con Ugo, sabato 16 marzo 2019, sempre al Monk. Paola, ben trovata. Come al solito dobbiamo presentare questo oggetto Ugo e quindi la definizione è d'uopo. Che è complicata. Noi l'abbiamo finito un dramedy club, una serata di monologhi brevi, brillanti, dovrebbero essere della durata massima di 8 minuti, che possono variare dalla stand-up al monologo invece di stampo più teatrale, però appunto che comunque tutti di stampo brillante, ecco, si dovrebbe venire per ridere. Però poi c'è chi dice anche che invece si va via a volte con l'amaro, c'è chi dice ma se avete fatto riflettere su una cosa, insomma, non è solo ma anche sì, l'idea è di passare un pensiero, insomma, quando succede non dispiace. Ok, continua ad essere un appuntamento in crescita. L'anno scorso stavamo a Radio Rock, proprio nelle sedi di Radio Rock, invece adesso da quest'anno, da 8 novembre, siamo al Monk, che ci ha ospitato, è la nostra casa per quest'anno. Abbiamo appuntamento fisso mensile, in genere è venerdì, invece questa volta capita di sabato 16. E questo sì, questa volta sarà di nuovo con noi Laura Formenti, che lei per esempio è proprio una stand-up. Poi abbiamo Marta Lucchesini, pezzo musicale, Cristina Pellegrino, Cristiana Vaccaro, io, Anastasia Anticordone, Arianna Bellarti, Francesca Agostini, tra le varie autrici, Francesca Stascia, Enrica Tedio, Nicole Barassone e Federica Tuzzi. Credo che non mi sono dimenticata nessuno. Ok, c'è un nucleo portante, poi ci sono invece gli ospiti che ci sono magari per un solo appuntamento. Ecco, che tipo di affiatamento si sta creando? Noi che ci definiamo il direttorio, siamo sei, Ok. lo zoccolo duro, e siamo appunto sei, e sempre meglio, nel senso che adesso abbiamo anche imparato a, chiaramente si conosce sempre di più, sempre meglio via via che il tempo va avanti, e quindi magari all'inizio c'erano più attriti, facciamo queste riunioni con cadenza settimanali che a volte era un po' un bagno di sangue, invece adesso stiamo imparando a gestirci molto meglio, poi c'è sempre la democrazia. Sì, è il problema che appunto essendo sei, quando fai 3 e 3 la cosa lì diventa un po' complicata, però insomma no, c'è grande, si respira un bel clima. E poi abbiamo fatto il conto l'altro giorno, perché l'altro giorno abbiamo avuto un incontro conferenza al Magro che ci ha ospitato, sono stati molto carini, abbiamo fatto una conferenza lì, e abbiamo fatto il conto che le varie performer, autrici, attrici che finora hanno aderito diciamo ad Ugo sono 54 fino alla volta scorsa. Quindi insomma un bel bacino di amiche di Ugo. Ci sono autrici e attrici, ci sono semplici attrici, ci sono le autrici che scrivono per le altre. Io l'anno scorso ho fatto un sacco di pezzi suoi, adesso quest'anno ho cominciato a scrivermi i miei, quindi magari meno, però anche Arianna Dell'Arti ha fatto pezzi suoi, eppure Arianna Dell'Arti è una che scrive i suoi, di Francesca dico, e anche Arianna Dell'Arti è una che si scrive i suoi propri. Poi in questo giro c'è Nicole Barassone, Enrica Tedio, la Tuzzi, che l'abbiamo vista, Federica Tuzzi fa parte delle No Choice, che sono anche loro una parte importante di Ugo, sempre come ospiti musicali, diciamo, e appunto però sono state sempre presenti loro come ospiti, invece questa è la prima volta, credo sia la, no, non è vero, la seconda volta, perché la prima volta l'ho fatto io l'anno scorso, vabbè, che si porta un pezzo di Federica Tuzzi come autrice e non come performer. Senti, che progetti ci sono? Visto che siamo all'undicesimo appuntamento, che cosa c'è all'orizzonte? Cercando di fare, l'idea era di fare un best of da qualche parte, da capire, c'era anche il Teatro Parioli, che eravamo in contatto con loro, però insomma c'è il discorso che per adesso quest'anno siamo in cartellone con il Monk, siamo felicissime, anzi ringrazio Raniero, se ne approfitto, e quindi non vogliamo nemmeno che, cioè se è appunto un best of e non è troppo vicino alle date che poi facciamo al Monk, allora si riesce ad organizzare. Però per esempio nel mese scorso è capito che avevamo la possibilità di fare quest'altra serata troppo attaccata alla data del Monk, e quindi poi c'è il rischio che vadano in conflitto, e noi non vogliamo, proprio perché appunto veramente siamo molto legati al Monk in questo momento, e lo ringraziamo tanto e gli vogliamo tanto bene, quindi lontano da noi, lungi da noi, vuol fare qualche sgarbo. Quindi insomma, da capire, sicuramente forse più per l'estiva uscirà fuori qualcosa, però adesso ancora di certo non abbiamo nulla. Sta di fatto che comunque tutte le serate le state documentando, le state filmando, quindi comunque c'è testimonianza. Sì, stiamo filmando, e poi ogni tanto lanciamo qualche pilloletta su Facebook o su Instagram della serata. Però sì, è tutto filmato, anche appunto da quest'anno, stando al Monk, siamo riusciti anche a fare dei video belli, decenti. Invece l'anno scorso avevamo avuto un po' più problemi di qualità video e audio. Quest'anno meglio, ci siamo organizzate meglio. Senti, in via di sviluppo, quali sono gli elementi che più ami di questo format? Io personalmente amo il fatto che mi ha costretto, tra virgolette, a mettermi a scrivere, che è una cosa che avevo sempre un po' lì così e che però non avevo mai veramente portato fino in fondo. Invece appunto da settembre mi sono messa a scrivere i miei pezzi, e una cosa che mi piace, mi dà molta soddisfazione, perché poi chiaramente un conto è fare un pezzo di qualcun altro, un conto è fare un pezzo che è scritto te, che insomma c'è tutto quello che dici ha un senso, quindi è anche in un certo senso più facile poi da performare quando stai lì, però meno facile poi invece l'angoscia, ogni volta che ne finisci uno stai già con l'angoscia che devi cominciare a scrivere quello la volta dopo, con sempre tutte le regolari ansie che non ce la farai, che io poi sono una procrastinatrice, mi arrivo sempre sotto, se no ho l'acqua alla gola, faccio fatica, e quindi è sempre un po' un'ansia, però è quell'ansietta che ti tiene vivo, ti tiene sveglio, ti tiene attivo, che a me piace, insomma, è positiva. Bene. E allora ricordiamo l'appuntamento con Ugo volume 11, sabato 16 marzo 2019 a Roma, al Monk. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Paola Michelini, che è diventata anche autrice. Allora un abbraccio, alla prossima. Un bacio, alla prossima. Ciao.